24, i gialli della storia. Il fatto che stiamo mandando alla morte un milione o due di ebrei ha ben poca importanza per me. Nei 4 anni passati ad Auschwitz, mia moglie e io eravamo una coppia felice. Il mio cuore è forte e la mia coscienza è limpida come quella di un bambino. Sono sicuro che passerò alla storia come un uomo che ha fatto molto per il suo popolo. Novembre del 45, nelle aule del tribunale di Norimberga si apre il processo ai vertici del Terzo Reich. Le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale giudicheranno i crimini e le atrocità commesse dai responsabili politici e militari del regime di Hitler. A fianco degli avvocati e dei giudici c'è un gruppo di psicologi. A loro il compito di capire se i meandri della psiche di quegli uomini nascondono qualcosa di diverso, qualcosa che giustifichi la loro disumanità. Un militare ebreo, lo psichiatra Leon Goldenschott, per molti mesi ha trascritto i suoi incontri con i gerarchi nazisti. Il suo taccuino è un documento straordinario. Oggi a Mix 24 sfoglieremo quelle pagine riapparse dopo più di 70 anni per scoprire l'ultimo segreto del nazismo, il giallo di quelle menti. Uno dei primi imputati che Leon incontra è Hans Frank, governatore generale della Polonia tra il 39 e il 44. Frank è un autentico schizofrenico o finge solo di esserlo? È schizofrenico quando dice: in me ci sono due Frank. Uno è qui, l'altro è il gerarca nazista. Io stesso mi domando come abbiano potuto i nazisti commettere questi crimini. Allora il primo Frank guarda il secondo e dice: Frank, sei proprio un essere spregevole. Secondo me è solo un vigliacco e un simulatore. Vogliamo parlare della sua vita privata? Il mio matrimonio è stato un fallimento, ma avevamo 5 figli. A mia moglie non interessa nulla di ciò che io considero interessante. Per esempio, non ha alcun interesse per la musica. Lei è pratica, io sono un idealista. Per molti anni non ho avuto rapporti intimi con mia moglie. Ho avuto varie amanti, in più occasioni. L'ultima è stata un'amica d'infanzia che ho ripreso a frequentare. Era una fanatica oppositrice di Hitler e di tutto ciò che avesse a che fare con il nazionalsocialismo. Politicamente non ci intendevamo. Ora penso che se l'avessi sposata non sarei diventato nazista. Sono una persona debole e influenzabile. Nel 1942 avrei voluto divorziare. Mia moglie scrisse a Hitler e una settimana dopo che avevo presentato l'istanza di divorzio, il Führer mi ha fatto sapere che non potevo divorziare, che lui non era d'accordo. Questo è un esempio di quale fosse l'influenza di Hitler in Germania. Hans Frank cerca delle giustificazioni ai suoi comportamenti criminali, anche se molti fatti sono facilmente riscontrabili nei suoi diari personali, 38 volumi che il gerarca ha consegnato agli avvocati al momento dell'arresto. L'accusa li userà nel corso del processo. Il dottor Frank dice: cercherò di tirare fuori dal serbatoio di questi territori tutto quello che si può ancora prendere. L'imputato Frank non solo era responsabile di aver ridotto alla fame il governatorato generale, ma si dichiarava addirittura orgoglioso del contributo che in questo modo dava al Reich. Ad una conferenza nel gennaio 1943, Hans Frank aveva detto: quando avremo vinto la guerra, non mi importerà se i polacchi, gli ucraini e tutti gli altri che vivono in questo paese saranno morti di fame o ridotti allo stremo. Non avrà nessuna importanza. In un altro rapporto, datato 12 agosto 1942, Frank aggiunge: il fatto che stiamo mandando alla morte un milione o due di ebrei ha ben poca importanza per me. Non sapeva quello che succedeva ad Auschwitz. Ho appreso la maggior parte della storia del nazionalsocialismo e dei suoi crimini durante questo processo. In Germania non si sapeva nulla della persecuzione degli ebrei. Da noi la stampa e anche la radio non erano libere. Ma non sono stati uccisi tanti ebrei in Polonia quando c'era lei? No. Ce n'erano ad Auschwitz, ma quella era Alta Slesia. Potrei leggerle le prove documentali che dimostrano che era completamente fuori dal mio controllo. Io non ho mai fatto deportare un ebreo in un campo di concentramento né bruciare un solo ebreo. Questo posso provarlo. Quindi non si sente minimamente in colpa? Il grande senso di colpa che provo è dovuto alla sensazione di aver seguito Hitler senza una ragione. Ho creduto in quell'uomo. Non si può sottovalutare l'influenza della personalità ipnotica di Hitler. Se avessi saputo ciò che abbiamo appreso dai processi, avrei protestato in maniera diversa da come ho fatto nel 1942. Quale protesta? Al mio discorso contro i campi di concentramento e contro le SS che ho pronunciato a Vienna, Heidelberg, Monaco e Berlino. Ha sollevato un grande trambusto e provocato una crisi. Sono stato privato di tutte le cariche ufficiali e ridotto a semplice membro del partito. Non hanno accolto la mia domanda di trasferimento e sono rimasto a Cracovia, nell'antico Palazzo Reale, un re privo di potere. E lo storico Horst Möller a esaminare questo particolare momento della carriera di Hans Frank. Un fatto eccezionale nella carriera di Frank e nella dittatura nazionalsocialista è che Frank entrò in polemica con Himmler nel 1942. Il disaccordo era sulla politica di sfruttamento e di sterminio degli ebrei. Frank voleva un approccio più moderato. Ora c'è da capire se la vera ragione sia quella indicata da Frank nei colloqui con lo psichiatra o se invece il motivo fosse un altro. Secondo il giudizio di noi storici, è evidente che l'intento di Frank non era proprio quello di rendere meno brutali i sistemi adottati nella Polonia occupata, bensì quello di ottenere migliori risultati economici, che secondo l'opinione di Frank non si potevano assolutamente ottenere con quella politica del terrore. Durante il processo di Norimberga i detenuti sono rinchiusi in celle di isolamento. I colloqui con lo psichiatra rappresentano uno dei rari contatti col mondo esterno. Per lo psichiatra ebreo, invece, fondamentale è l'incontro con Hermann Göring. Göring, l'imputato principale del processo di Norimberga, è il braccio destro di Hitler. È lui l'ideatore della Gestapo, lui il responsabile delle persecuzioni e dei pogrom contro gli ebrei dopo la notte dei lunghi coltelli. A tutta questa gente preme soltanto salvare la pelle. Guardandoli in cella mi domando come abbiano fatto personaggi del genere a terrorizzare il mondo. La cosa che più mi stupisce è che non sembrano provare alcun senso di colpa. È incredibile. Hanno ridotto in polvere la civiltà e tutti i sentimenti che rendono possibile una convivenza pacifica. Nel momento in cui Göring ha lasciato l'aula, ho sentito distintamente che diceva agli altri imputati: «Questo processo è una buona cosa. Come ho sempre detto, la terra è rotonda e gira. Un giorno anche la fortuna girerà a nostro favore». È sicuro di sé, spesso arrogante, ha un atteggiamento infantile e resta sempre un cinico megalomane. Pensano che io sia il più pericoloso qui in mezzo, non solo perché sono il nazista più importante del gruppo. Non dimenticate che avete a che fare con figure che hanno fatto la storia. Possiamo avere torto o ragione, ma restiamo figure storiche. Il direttore del carcere è una persona qualsiasi. E come personaggio storico, quale si definisce, è pronto ad assumersi le sue responsabilità per quanto è accaduto? Io sono l'unico responsabile per tutto quel che riguarda gli atti ufficiali del governo, non per i programmi di sterminio. Ero il successore di Hitler e mi ritengo tale di fronte al popolo tedesco. Ma Göring tralascia alcuni aspetti della sua attività, come ricorda lo storico Jan Gershwald. Naturalmente, anche qui Göring tende a passare sotto silenzio, minimizzare alcuni fatti. come la sua attiva partecipazione alle misure antisemite introdotte all'indomani dei pogrom del 1938. E soprattutto dimentica di dire che fu lui, in veste di responsabile dell'economia, a gestire l'aspetto economico della politica antisemita successiva ai pogrom, con i provvedimenti finalizzati a estromettere gli ebrei dalla vita economica, o la beffa della multa di 1 miliardo di marchi che la comunità ebraica fu obbligata a pagare come risarcimento per la notte dei cristalli. Solo nel gennaio 1939 Göring delega a Heydrich la responsabilità della deportazione degli ebrei e gli affida la direzione dell'ufficio centrale per la sicurezza del Reich. Il 19 febbraio del 1946 la pubblica accusa presenta alla corte un filmato sulle atrocità naziste. Per la prima volta vengono mostrati i forni crematori, le camere a gas, i cadaveri, le ossa, le fosse comuni. In aula tutti osservano le reazioni dei nazisti. Ci si chiede se finalmente mostreranno un segno di pentimento. Göring invece volge lo sguardo altrove. Perché non ha guardato il filmato? Per prima cosa, non ha nessun valore dal punto di vista legale, non prova nulla. Potrebbero anche aver fatto uccidere un centinaio di prigionieri di guerra tedeschi vestiti con le uniformi russe. Lei non conosce i russi come li conosco io. Molte immagini risalgono al periodo della rivoluzione russa, ad esempio quella con i cesti pieni di teste mozzate. Probabilmente sono stati loro ad ammazzare quelle persone per riprendere scene di gente appena uccisa. Non è stato lei a introdurre i primi campi di concentramento nel 1933? Sì, lo ammetto francamente. A quel tempo nei campi di concentramento venivano rinchiusi i comunisti e gli altri nemici del nazionalsocialismo. Ma posso assicurare che non ho mai pensato di utilizzarli come campi di sterminio. Conveniva che gli ebrei fossero indesiderabili come esseri umani? La questione non era se fossero desiderabili o meno. La differenza tra un ebreo e un tedesco era talmente grande che gli ebrei in Germania non avevano prospettive. Che gli ebrei dovessero venire evacuati era chiaro. Che dovessero essere trasferiti nel governatorato generale era altrettanto chiaro. Ma non era chiaro che dovessero essere sterminati. Dopo la guerra sarebbero stati portati in Palestina o altrove. È spaventoso pensare che questi uomini che hanno concepito un piano per mandare a morte milioni di esseri umani, per uccidere indiscriminatamente uomini, donne, vecchi e bambini, vivessero in un paese così ricco di cultura, nella terra di Goethe. Molti di loro erano persino laureati. Nonostante le analisi dello psichiatra siano emotivamente valide, dal punto di vista scientifico la sua indagine sembra a un punto morto. C'è sempre da parte di tutti i suoi interlocutori il tentativo di discolparsi e cercare giustificazioni. Ma il 10 aprile c'è un clamoroso colpo di scena. Nell'aula del tribunale di Norimberga depone Rudolf Hess, comandante del campo di sterminio di Auschwitz, e la sua testimonianza demolisce tutte le tesi difensive adottate dagli imputati. Hess descrive la selezione dei prigionieri, allora arriva al campo, le camere a gas, i denti d'oro strappati ai cadaveri, l'oro fuso mandato al Ministero delle Finanze. La barbarie burocratica del nazismo viene svelata in tutta la sua terrificante efficienza. A che cosa ha pensato oggi? A niente di particolare. Ho scritto un breve resoconto biografico della prima parte della mia vita. È qui, se le interessa. Può dirmi a parole cosa ha scritto? La casa dei miei genitori era accogliente. I miei stavano bene insieme, davano tutto il loro affetto ai bambini. Avrei voluto fare il missionario in Africa. Invece sono diventato un soldato e mi sono sposato. Ho avuto 5 figli. Nei 4 anni passati ad Auschwitz, mia moglie e io eravamo una coppia felice. Non ho avuto alcuna difficoltà coniugale a causa del lavoro. Mia moglie è venuta a conoscenza dei massacri solo nel 1942. Un giorno ha sentito per caso le parole di un funzionario del partito e ha voluto assolutamente che gli dicessi la verità. E io gliel'ho detta. C'erano 2 vecchie case coloniche ad Auschwitz che venivano usate come camere a gas. Come funzionava? Beh, le cose stavano in questo modo. I trasporti non arrivavano ogni giorno. Magari in una stessa giornata ne arrivavano due o tre, ciascuno di 2000 persone. Ma c'erano periodi in cui non ne arrivavano per 3-6 settimane. Quanto tempo rimanevano ad Auschwitz i deportati? Non ci rimanevano affatto. Una linea ferroviaria conduceva a Birkenau. Lì il treno veniva scaricato. Venivano fatti spogliare. Avevamo messo grandi cartelli su cui c'era scritto alla disinfezione o docce. Volevamo evitare qualsiasi difficoltà tecnica nella procedura di sterminio. Non la turbava uccidere bambini della stessa età dei suoi figli? Non era facile per me o per gli altri militari delle SS. Vedere quei mucchi di cadaveri e sentire sempre quell'odore di bruciato non era un piacere. Ma Himmler ci aveva dato degli ordini e aveva spiegato che era necessario farlo. Io non mi sono mai domandato se fosse sbagliato. Dopo questo primo incontro, lo psichiatra scrive al direttore del carcere, il colonnello Andrus, una breve relazione. Rudolf Huss è privo di principi morali o etici. Il nazionalsocialismo ha spinto questo sadico a commettere atrocità senza precedenti, consentendogli di mantenere un'apparenza di rispettabilità sul piano sociale e politico. Alla coscienza, o superio come viene definito in psichiatria, di uno psicopatico. Nessuna tendenza suicida. Il fatto di aver messo a morte 2,5 milioni di persone non la tormenta mai, neppure un po'. Pensavo di fare la cosa giusta. Obbedivo agli ordini. Non so a cosa si riferisca quando parla di essere tormentato da queste cose. Io personalmente non ho ucciso nessuno. Ero solo il direttore del programma di sterminio ad Auschwitz. Ha mai ripensato a tutte quelle esecuzioni, alle camere a gas, alle cremazioni dei cadaveri? No, non ho fantasie del genere. Le capita mai di fare degli incubi? Mai. Ho letto i resoconti dei processi sui giornali e sono giunto alla conclusione che, diversamente da quanto mi era stato detto, lo sterminio degli ebrei non fosse necessario. Ora sono colpevole, come lo sono tutti gli altri, e devo affrontarne le conseguenze. Quale pensa dovrebbe essere la sua punizione? L'impiccagione. Cosa spera di ottenere dagli imputati lo psichiatra militare Leon Goldenson? Vuole che provino rimorso oppure che confessino soltanto i loro crimini? Forse gli basterebbe che ammettessero la loro partecipazione al sistema nazista. Intanto il processo va avanti, le tesi difensive si fanno più deboli, per poi sgretolarsi definitivamente con la deposizione di Julius Streichner, fondatore e direttore del giornale Der Sturmen. Streichner rivendica con orgoglio il suo antisemitismo. Esiste un unico modo per liberarsi una volta per tutte dagli ebrei, da questa razza maledetta: lo sterminio. Sugli ebrei so più di quanto loro sappiano su se stessi. Davvero? Mi sono imbattuto nell'antisemitismo una sera di tanti anni fa. Il mattino seguente mi sono reso conto che lo scopo della mia vita sarebbe stato diventare un'autorità in fatto di antisemitismo. Sono uno studioso di scritture ebraiche, in particolar modo del Talmud. Non ho nulla contro gli ebrei, purché non interferiscano con le nostre pure discendenze di sangue ariano. Scopo del mio giornale, Der Sturmer, era mettere in guardia i tedeschi contro l'influenza ebraica che rischiava di rovinare la nostra nobile cultura. Sterminando 4-5 milioni di ebrei, ne hanno fatto dei martiri. E l'antisemitismo è arretrato perfino nei paesi in cui aveva fatto buoni progressi. Ora che la Germania è sconfitta, il bolscevismo ebraico governa la Russia. E negli Stati Uniti abbiamo la democrazia ebraica, anche qui a Norimberga. La maggioranza dei pubblici ministeri britannici, americani e russi è costituita da ebrei. Secondo lei anche Jackson, il capo dell'accusa americana, è ebreo? Per me si chiama Jacobson, basta guardarlo. Negli ultimi mesi l'ho guardato camminare, l'ho osservato bene in viso. Quello si chiama Jacobson e i suoi antenati erano ebrei tedeschi. Julius Streicher mi sembra un uomo di intelligenza probabilmente limitata, piuttosto ignorante. Tant'è vero che ha un quoziente di intelligenza inferiore a quello degli altri imputati. A mio avviso è un anziano psicopatico con conflitti sessuali irrisolti, che negli ultimi 20 anni si sono manifestati sotto forma di antisemitismo maniacale. Durante le sedute non sta mai fermo. Muove le mani in modo compulsivo. Streicher prova grande piacere nel mostrarmi di essere fisicamente più forte degli altri imputati, in particolare di Göring. Ciò nonostante, ha avuto un attacco di tachicardia che lo ha tenuto a letto per 3 giorni. Oggi la trovo bene. Non ha più avuto problemi di tachicardia? Sto bene. Oggi avevo bisogno di fare un bagno. Mi sono procurato tutta l'acqua che potevo e mi sono lavato nella tinozza, da capo a piedi con uno straccio. È importante per me fare il bagno con l'acqua fredda e strofinarmi per bene, di tanto in tanto. Lo facevo anche a casa. A volte nel cuore della notte mi veniva l'impulso di fare un bagno freddo e lo facevo. Il mio cuore è forte. Sono solo un po' nervoso, ma non per il processo o per la reclusione. Se tutti avessero una coscienza pulita come me, nessuno dovrebbe prendere sonniferi. E la mia coscienza è limpida come quella di un bambino. Sono convinto che nessuno tra coloro che siedono qui sul banco degli imputati avrebbe voluto quegli eccidi. Non avevo mai sentito parlare di Auschwitz prima d'ora. Non ne conoscevo l'esistenza. Che uno sia antisemita è comprensibile, ma sterminare donne e bambini è talmente abnorme da risultare difficile a credersi. Nessuno di noi imputati qui lo ha mai voluto. I colloqui di Leon Goldenson con Julius Streicher, con Rudolf Hess, con Hans Frank, con Hermann Göring sono tra i capitoli più illuminanti del lavoro svolto a Norimberga. Rappresentano però solo una piccola parte degli incontri che Leon ha avuto con altri 16 imputati e 13 testimoni. Le parole che ha annotato giorno per giorno racchiudono, come lui stesso l'ha definito, un vero tesoro dal punto di vista psicologico. Goldenson si rende conto che i gerarchi nazisti non sono criminali qualsiasi. Nonostante l'enormità dei crimini commessi, non hanno pronunciato nemmeno una parola di rimorso. Non provano nessun pentimento, o meglio, non provano nessun sentimento. Con il suo lavoro, Leon Goldenson offre molte risposte, ma solleva anche dubbi inquietanti. I suoi taccuini offrono però una straordinaria e inedita possibilità: avvicinare i segreti più inconfessabili e nascosti dei criminali nazisti.